America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. François Hollande ha vinto il primo turno delle elezioni francesi, ringrazia gli elettori per il voto, soprattutto parla di crescita, di occupazione, di riduzione del debito, di protezione dell'industria e della promozione dei valori della Repubblica e la preparazione del Paese alle sfide del futuro, dice prima fra tutte quella energetica. Perché vi parlo di Hollande? Beh, perché l'impatto della vittoria di Hollande sull'America è molto importante sotto due punti di vista. Dal punto di vista dell'amministrazione, che poi sarà l'interlocutore immediato del nuovo presidente francese, sia che sia Hollande, sia che sia confermato Sarkozy, questa vittoria da una parte porta un messaggio negativo, dall'altra un messaggio positivo. Qual è il messaggio negativo? Beh, il messaggio negativo è che oggi chi è al governo paga, non viene rieletto, sconta i peccati della crisi economica, di una crescita che non c'è, e Barack Obama, come abbiamo visto proprio in questi ultimissimi giorni, settimane, si ritrova davvero con un problema non da poco, perché l'economia in America ha cominciato a dare di nuovo qualche segnale di debolezza, perché una buona parte dell'establishment americano non è pronto a donare la stessa quantità di denaro che donava nel 2008 a Barack Obama. Pensate che da dati recenti pubblicati dall'Agenzia per le elezioni per la raccolta fondi, un'agenzia federale che fa il monitoraggio delle donazioni per i candidati alle elezioni americane, risulta che nel caso di Obama c'è stata davvero una forte flessione da parte di donatori dell'establishment, vale a dire industriali, professionisti, avvocati, quindi una categoria di persone che nel 2008 aveva contribuito per la maggioranza delle donazioni e che oggi, in questo momento, alla fine di marzo, invece ha fatto un passo indietro. Abbiamo visto come per le elezioni di Romney l'establishment ha giocato un ruolo chiave. Ecco, se questo lo portiamo a livello nazionale, ci accorgiamo che forse per Barack Obama si pone un piccolo problema in più, nel momento in cui l'establishment, come ci è sembrato di capire dalle varie conversazioni che poi mi capita di avere qui a New York, è schierato contro Barack Obama. Dunque il messaggio negativo che viene dalla Francia è molto chiaro: chi è al potere oggi rischia moltissimo. Qual è il messaggio positivo? Il messaggio positivo è sul fronte della crescita, proprio quello di cui Barack Obama ha bisogno, perché Hollande si pone tutto sommato al fianco degli Stati Uniti per una politica della crescita, per politiche espansionistiche, vuole l'eurobond e diventa così l'interlocutore che potrebbe opporsi alle politiche tedesche predominanti oggi in Europa e portare un messaggio che è molto più vicino al messaggio che vorrebbero ascoltare dall'Europa Tim Geithner, segretario al tesoro americano, e lo stesso presidente Barack Obama. Questo messaggio, sottolineo, è stato diffuso anche da Christine Lagarde, francese anche lei, direttore del Fondo Monetario Internazionale. Nell'intervista che abbiamo avuto la settimana scorsa ha detto che la Banca Centrale Europea dovrebbe pensare alla crescita, non soltanto alla lotta all'inflazione. Ecco, questa è di nuovo una delle posizioni su cui la Germania è assolutamente contraria. Whoever voted for that? Nobody. You make out of the Constitution something that it was never meant to be. E Antonin Scalia, che parla, uno dei giudici della Corte Suprema americana, che a partire da mercoledì comincerà ad affrontare il problema dell'immigrazione, soprattutto se gli stati hanno una delega costituzionale per poter legiferare e prendere posizioni anche drammatiche, come abbiamo visto nel caso dell'Arizona, sulla questione immigrazione. È una questione molto importante, come potete immaginare, non soltanto per questioni elettorali, ma perché ha un impatto pratico poi sul lavoro del day to day. There still is a little bit of a contradiction between the improvement in the labor market and the speed of the overall. Sempre mercoledì parlerà Ben Bernanke, il governatore della Banca Centrale Americana, terrà una conferenza stampa subito dopo gli incontri del Comitato Monetario, confermando la decisione da parte dell'Istituto Centrale di voler essere molto più trasparente sulle sue decisioni. Beh, perché vi ho parlato di questi elementi? Beh, perché sono gli elementi dominanti di questa settimana, ma soprattutto perché ci danno un'idea del continuo dibattito, non sempre necessariamente costruttivo, in seno alle istituzioni occidentali. E vi parlo di questo perché in queste ore sono uscite delle notizie che invece riguardano la Cina, dove questo dibattito c'è molto meno, il dibattito democratico, le elezioni, i cambiamenti ai vertici attraverso le elezioni popolari, l'intervento del Parlamento, l'intervento delle istituzioni, delle agenzie federali. Ecco, tutto questo in Cina è un problema che non c'è. La Cina continua a tirare e queste sono un paio di notizie piuttosto interessanti. There's the look, the design is totally new, it's been redesigned completely from A to Z. It's still a SUV, it's still definitely a SUV for people that look for adventure. However, the reputation of gas guzzler that the SUV, all the SUV used to have, we're going to fix that with this vehicle with two new engine. La Ford ha deciso di investire 5 miliardi di dollari in Cina e durante il fine settimana ha comunicato che quadruplicherà la produzione di SUV in Cina. Pensate, in Cina si vendono già 2 milioni di SUV, in America se ne vendono 4 milioni, quindi la Cina sta avanzando rapidissimamente. La vendita di SUV conta grosso modo il 12% delle vendite totali. Pensate che la General Motors e la Volkswagen vendono rispettivamente circa 2 milioni, 2 milioni e 100 vetture all'anno. America 24. Altra notizia che riguarda la Cina: come sapete, si è detto che i cinesi sono andati in giro per il mondo per fare approvvigionamento di materie prime. Bene, non solo di materie prime. Il Wall Street Journal di questa mattina ci dà una notizia che la Cina è diventato il primo acquirente al mondo di mucche da latte. Sta facendo un'incetta di mucche da latte, compra i vitelli, il prezzo dei vitelli è salito, li compra dappertutto, dall'Australia, dall'Europa, per ricostituire il suo stock che ha sofferto per via di un'epidemia in tempi recenti. What's the difference in the overall pattern of political development? China, as I said, develops a modern state very, very early on in its history, but it never develops rule of law. China is the only world civilization that does not have rule of law in my sense because it never has a transcendental religion. Francis Fukuyama, grande scienziato politico, autore di un celeberrimo libro La fine della storia. Perché vi parlo di lui? Perché secondo me alcune sue tesi recenti tengono insieme alcune delle notizie di cui vi ho parlato oggi. Cosa abbiamo visto? Da una parte abbiamo registrato la confusione, l'incertezza occidentale che ha una crisi economica, una crisi politica, soffre della sfida cinese. Dall'altra, proprio a Pechino invece si vede che le cose vanno avanti benissimo, avanzano come dei treni. Ora, che succede? Che Pechino attira quei capitali occidentali di cui invece avremmo bisogno noi. E la tentazione qual è? Beh, l'abbiamo sentita più volte, quella di dire forse è meglio un regime centralizzato tipo quello cinese piuttosto che una democrazia. Ecco, devo dire che questa è una tentazione che andrebbe sempre rigettata perché i vantaggi straordinari della libertà democratica sono insuperabili. Ecco, Fukuyama cerca di dare corpo a questa tesi dando una spiegazione. Il problema delle democrazie occidentali è nella vetocrazia, non è nella democrazia. La democrazia è meglio di un sistema dittatoriale, però soffre di questo malessere. L'Occidente è strangolato da queste vetocrazie, in America agenzie federali contrapposte, partiti polarizzati, gruppi di pressione, di lobby, si producono questi veti incrociati che paralizzano. In Cina, dove non esiste un sistema legale come lo conosciamo noi, il problema dei veti, un problema TAV per intenderci, non si pone. Ecco, la questione è molto complessa, ne parleremo nei prossimi giorni, ma intanto mi sembrava importante in questi momenti così delicati per i nostri assetti politici ed economici cominciare a lanciare questo dibattito. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. I Fun sono atterrati oggi a New York da Boston, dove è partito il loro tour di promozione per il secondo album della loro storia. La band sarà ospite domani da David Letterman, poi suonerà in due concerti che sono già sold out. Dei Fun, dunque, We Are Young.